Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il governo presenta a Trieste il primo piano del mare, lo compongono 10 economie, dalla cantieristica al turismo, alla stazione marittima, un forum in 2 giornate con numerosi ministri e specialisti. Incidente sul lavoro, 2 operai feriti da un ritorno di fiamma mentre lavoravano in un sottotetto, è accaduto a Trieste in via del Veltro. I fondi del PNRR, l'interesse delle organizzazioni criminali e delle mafie è uno dei pericoli evidenziati per il nostro territorio dal rapporto semestrale della DIA. Professioni sanitarie all'Università di Trieste, i test per l'accesso ai corsi, ma in alcuni casi ci sono più posti che domande. Pordenone Legge, seconda giornata del festival con oltre 50 appuntamenti, cultura in lutto per la morte dell'illustratore e vignettista friulano Renato Calligaro. Basket, Supercoppa, decisivo lo spareggio di domani sera fra Trieste e Udine. Parla il biancorosso Candussi dopo il successo di Cividale. 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrea Saule. Diversi ministri del governo Meloni, importanti manager pubblici e di gruppi privati e specialisti di diversi settori partecipano a Trieste al forum Risorsa Mare che si è aperto questa mattina alla stazione marittima. Anche un messaggio della Premier nella primissima parte della scaletta. Sentiamo. Per la prima volta l'Italia si dota di un piano del mare, un piano che viene presentato oggi e domani alla stazione marittima di Trieste, nell'edizione inaugurale del forum Risorsa Mare. Il documento di oltre 200 pagine è stato realizzato sentendo 10 ministeri diversi e punta su 8 macro temi che riguardano l'economia del mare, dalla cantieristica alla pesca, dal turismo ai porti. A presentare con un videomessaggio l'evento è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto un ministero che si occupasse proprio del mare, affidandolo a Nello Musumeci. Siamo una piattaforma nel Mediterraneo, tra canale di Suez e stretto di Gibilterra, eppure abbiamo agito come se non fossimo eredi delle repubbliche marinare, ha detto Meloni, che ha aggiunto: abbiamo deciso di invertire la rotta e di guardare finalmente al mare come una risorsa che va valorizzata con una visione di insieme. Diversi i ministri presenti, oltre allo stesso Musumeci, tra questi il responsabile di agricoltura e pesca, Francesco Lollobrigida. L'espansione nei nostri mari del granchio blu, uno dei principali temi al centro dell'azione del suo dicastero. La presenza della specie aliena minaccia infatti non solo la sopravvivenza di molte imprese ittiche, ma lo stesso ecosistema marittimo. Tra i discorsi introduttivi quello del ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani. La 2 giorni di dibattiti vede la presenza di molti relatori, tra cui il numero 1 di Fincantieri, Pier Roberto Folgiero, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Una prima parte di tavole rotonde relative alla risorsa mare si sta concludendo in questi minuti alla stazione marittima di Trieste. A chiudere gli eventi del mattino il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Lo abbiamo incontrato poco prima dell'intervento, gli abbiamo chiesto di una delle emergenze che quest'estate hanno trovato più spazio sui media: l'invasione del granchio blu in Alto Adriatico. Specie aliena ed invasiva che va distrutta, annientata, ma anche cibo nuovo e prelibato da conoscere e cucinare. Le due cose non vanno in contrapposizione, dice riguardo alla proliferazione del granchio blu il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, ospite istituzionale dell'edizione del forum Risorsa del Mare, evento voluto dal governo e che parte proprio da quest'area dell'Alto Adriatico che per prima ha lanciato l'allarme granchio blu, responsabile della devastazione delle vongole di tutti i molluschi. Io penso, ha detto Lollobrigida al nostro microfono, che possiamo creare una filiera tutta italiana per la lavorazione di questo pesce, possiamo commercializzarlo e renderlo una risorsa. In merito allo stato d'emergenza nazionale chiesto da regioni, attività economiche, ma anche dal mondo della ricerca, l'OGS di Trieste in primis, che vuole studiare questa specie, il ministro non si è sbilanciato, ha detto che questa specie avrebbe dovuto essere studiata molti anni fa, visto che non è arrivata qui di punto in bianco e che sicuramente le aziende vanno sostenute economicamente a fronte delle tante perdite che hanno subito. Al ministro poi abbiamo chiesto in merito ai danni da maltempo che hanno messo in forte difficoltà l'economia agricola regionale. Il Friuli Venezia Giulia, ha detto il ministro, è un esempio virtuoso perché le aziende tutte hanno imparato ad assicurarsi. Non è così in tutta Italia, ecco che il governo ha deciso di premiare di più fornendo maggiori contributi economici chi appunto ha scelto di assicurarsi. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Cronaca, notizia di poco fa, due uomini tra i 20 e i 30 anni di età sono stati soccorsi questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente o di un infortunio sul lavoro verificato negli spazi di un cantiere a Trieste in via del Veltro. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine sono rimasti feriti a seguito di un'esplosione o di un ritorno di fiamma di una bombola che stavano usando per delle saldature in un sottotetto. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi di due ambulanze provenienti da Trieste e l'automedica. Il personale medico infermieristico ha preso in carico i due uomini che sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara, uno in codice verde e uno in codice giallo. Hanno riportato lesioni e ustioni. C'è anche l'immigrazione illegale tra i fenomeni notevoli segnalati per il Friuli Venezia Giulia nell'ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, un fenomeno che negli ultimi mesi si è ulteriormente accentuato. Da una parte la crescita economica regionale, in particolare a Trieste e Udine, con gli investimenti per le infrastrutture e con i fondi del PNRR che suscitano l'interesse delle organizzazioni criminali riconducibili alle mafie tradizionali. Dall'altra i tentativi di insediamento di quelle organizzazioni criminali in forma multietnica attive soprattutto nel traffico di stupefacenti, nell'immigrazione clandestina e nello sfruttamento della prostituzione. Sono i pericoli evidenziati dal rapporto della Direzione Investigativa Antimafia per il secondo semestre 2022. Per questo l'attenzione rimane alta. Secondo il procuratore generale facente funzioni presso la Corte d'Appello di Trieste, Carlo Maria Zampi, non risultano però preoccupanti episodi di infiltrazioni di stampo associativo mafioso, merito della vigilanza delle istituzioni e del rispetto delle regole di amministrazioni e popolazione. Tuttavia nel tempo è stata appurata la presenza in regione di soggetti appartenenti ad 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra e a sodalizi criminali pugliesi. Non ci sono comunque evidenze investigative che accertino forme stanziali di questi. A preoccupare anche la forte crescita del flusso migratorio, aspetto sottolineato da Zampi, che fa riferimento alla cosiddetta rotta balcanica, dove il Friuli Venezia Giulia rappresenta la meta finale dei migranti. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. All'Università di Trieste sono cominciati questa mattina i test per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie. L'Ateneo ha allargato il numero dei posti disponibili, ma per alcuni corsi le domande sono relativamente poche. Si sono presentati in poco meno di 600 candidati a 8 corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie all'Università di Trieste. Sono a disposizione 180 posti in infermieristica, 30 in fisioterapia, 16 in ostetricia, 20 in tecniche della riabilitazione psichiatrica, 30 in igiene dentale, 40 in assistenza sanitaria, 20 in tecniche della prevenzione nell'ambiente dei luoghi di lavoro, 25 in logopedia. Tra questi in particolare infermieristica si propone di colmare le gravi carenze di organico nella sanità regionale. Ogni anno l'Ateneo del capoluogo ne laurea una novantina, quasi tutti trovano lavoro entro il primo anno. Silvia Palmisano, chirurgo a Cattinara, presidente della commissione per gli esami di ammissione delle lauree triennali delle professioni sanitarie. Allora, perché meno di 2 candidati per ogni posto? La scelta del corso di laurea è ovviamente individuale e deve tener presente di diverse motivazioni, di diverse ispirazioni del singolo studente. Dal punto di vista dell'Ateneo comunque c'è stato un grosso investimento per aumentare la qualità della didattica attraverso l'aggiornamento dei corsi di studio, attraverso l'implementazione di tutta la didattica simulata per offrire sempre un alto livello di qualità di didattica allo studente. È stata una mossa vincente da parte dell'università perché abbiamo notato che circa il 20% degli iscrivibili viene da fuori regione, quindi c'è una grossa attrattività verso il polo universitario di Trieste. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un pastore di 53 anni è stato denunciato a Trieste per aver recintato con filo elettrificato un terreno di circa 12 ettari di proprietà comunale in prossimità della ciclo pedonale Cotour nella zona di Altura, facendovi pascolare cavalli, capre e pecore. Il comune lo aveva già invitato a ripristinare l'area per consentire la libera fruizione. Siccome l'uomo ha ignorato la diffida, la polizia locale ha posto il terreno sotto sequestro. Gli animali, controllati da veterinari della SUGI, sono risultati tutti in buone condizioni e affidati comunque a un custode giudiziale. Per il momento resteranno nella stessa area, accuditi da volontari che possono accedere al fondo, accompagnati dalla polizia locale. Il pastore dovrà rispondere di invasione di terreno, reato penale. Ora uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo da nuvoloso a variabile sul Friuli Venezia Giulia, ci sono state in diversi momenti della mattinata precipitazioni sparse. La situazione delle temperature alle 11, a Trieste 23 gradi, mare quasi calmo con temperature di 25 gradi, a Gorizia e a Pordenone 22, a Udine 23, nell'area montana a Tolmezzo 20, a Tarvisio 18, a Sappada 13, a Forni di Sopra 16 gradi, sul Piancavallo 16, sullo Zoncolan 12, sul Lussari 11 gradi, sulla costa Lignano 23, a Grado 22, temperatura del mare 25. Nelle prossime ore avremo cielo variabile su pianura e costa, in prevalenza nuvoloso sulla zona montana. Saranno possibili rovesci o temporali a carattere sparso e intermittente, con pause anche prolungate, senza piogge. Sulla costa dal tardo pomeriggio soffierà bora moderata. Per domani cielo in prevalenza nuvoloso sulla zona montana, variabile in pianura e costa. Al mattino residui rovesci sulla costa. Dal pomeriggio possibili rovesci o temporali a carattere sparso e intermittente, con pause anche prolungate, senza piogge, più probabili sulla zona montana. Sulla costa nella notte e fino al primo mattino soffierà la bora moderata. La pagina della cultura, in primo piano un lutto, quello per la scomparsa dell'illustratore fumettista friulano Renato Caligaro, per tanti anni protagonista della satira politica e di costume. Tra i suoi personaggi più celebri, Donna Celeste. Caligaro, friulano di Bui, aveva 95 anni, aveva pubblicato vignette e strisce su Linus, Alter, Lotta Continua, Manifesto, sui settimanali Panorama e L'Espresso e sui supplementi satirici Tango, Cuore, Satiricon. Ha lavorato nella pubblicità come illustratore, non di secondo piano, anche se meno nota al grande pubblico la sua attività artistica, soprattutto pittorica. L'ultimo saluto a Caligaro in programma sabato a Buia. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'apertura ufficiale ha nobilitato la prima giornata di Pordenone Legge. Oggi il festival è ripreso con i consueti ritmi. Nel programma c'è una cinquantina di appuntamenti, tra i quali quello dedicato alla legalità e riservato ai giovanissimi, con l'ex magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo. Una mattinata di educazione civica speciale per bambini e ragazzi delle scuole di Pordenone. Sul palco di Piazza della Motta stamani l'ex magistrato Gherardo Colombo, protagonista di alcune tra le maggiori inchieste giudiziarie del secondo Novecento, la loggia P2, il delitto Ambrosoli e soprattutto Tangentopoli, di cui ricorre il trentennale. La società non può rigenerarsi solo attraverso la repressione giudiziaria, dice Colombo, ma il cambiamento parte dall'educazione nelle scuole. Io credo però che ci sia poco stimolo a partecipare. Delle volte la mancanza di interesse dipende proprio dalla mancata percezione che siamo poi noi che indirizziamo quel che succede, che indirizziamo il paese. E quindi se non partecipiamo, poi il paese va dove vuole qualcuno, non dove vogliamo tutti. Di diritti dei popoli che continuano a essere calpestati ha parlato invece ieri sera Antonia Arslan, autrice di bestseller come La masseria delle allodole e La strada di Smirne sul genocidio armeno. È tragico, vediamo questa guerra in Ucraina che infuria e non se ne vede la fine. Una minoranza di armeni nel Nagorno-Karabakh che è chiusa dentro da 10 mesi senza cibo. Sta esaurendo le scorte. Insomma, vediamo quel che succede in Nigeria. E sono proprio focolai di malvagità che a volte assumono proprio anche la veste di genocidio, qualche volta di per semplice persecuzione. Si tratta solo di continuare a lottare sempre, di avere fiducia che nel fondo di ogni uomo c'è qualche cosa di positivo, cercarlo e sperare che affiori. Tra gli ospiti di oggi Nicoletta Costa, Carlo Cottarelli, Giuseppe Antonelli, Pier Giorgio Odifreddi, Paolo Di Paolo, Ilaria Capua, Giuseppe Culicchia e Marco Balzano. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli, Venezia Giulia. E nell'ambito di Pordenone Legge sarà presentato questa sera il docufilm su Lino Zanussi, l'anteprima a Cinema Zero. Il titolo è una citazione, racconta un po' dello spirito di Lino Zanussi, insomma, no? Della sua proverbiale tenacia e anche in qualche modo la sua spregiudicatezza. Si chiama Cavalcando la Tigre, vita di Lino Zanussi, il docufilm di Pier Giorgio Grizzo, che ne ha curato regia e sceneggiatura, da un'idea di Stefano Candiani, che racconta la vicenda umana e imprenditoriale del grande capitano d'industria friulano. La storia di Lino Zanussi è un po' la storia di Pordenone, no? Perché questa città è cresciuta in parallelo a questa azienda, ed è un classico caso, un po' come si dice anche per la Fiat con Torino, un classico caso di company town, cioè di città azienda, perché alla fine negli anni d'oro, alla metà degli anni 60, praticamente la Zanussi aveva 10.000 dipendenti qui tra Pordenone e Porcia su una realtà di 60.000 abitanti, quindi possiamo dire che nel nostro territorio più o meno in ogni famiglia c'è qualcuno che ha lavorato alla Zanussi. L'attore Raffaello Balzo interpreta Zanussi, nel cast anche i Papu. È un documentario dove si mescolano interviste, immagini d'archivio e scene con attori e comparse. Il film si interroga anche su quale sarebbe stato il destino dell'azienda e di Pordenone se Zanussi non fosse morto prematuramente in un incidente aereo. Cosa sarebbe stato con Lino Zanussi vivente? Saremmo diventati una sorta di Silicon Valley italiana, forse? Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le opere di Boris Pachor, i riconoscimenti ricevuti nel corso della vita e alcuni suoi dattiloscritti sono esposti da ieri in una mostra a lui dedicata al Narodni Dom di Trieste. Il più importante scrittore sloveno con cittadinanza italiana, morto nel 2022, ritorna così virtualmente nel luogo che ne aveva, col rogo del 1920, profondamente segnato la vita e la scrittura. Valentina Oblak lo ha intervistato, suo figlio Adrian, partendo proprio da questo aspetto. Perché è importante che questa mostra che riguarda suo padre Boris Pachor ci sia proprio qua, nel cuore di Trieste, nel Narodni Dom? È importante perché lui visse quel momento in cui il Narodni Dom bruciava, quindi si era affacciato sulla via commerciale e ha visto tutta la scena, quindi questa gli è stata impressa nella memoria permanente e ovviamente significava per lui una fine di una convivenza tra popoli e quindi premeva che questo edificio tornasse nelle nostre mani. E l'importanza di questa mostra per Boris Pachor cosa rappresenta? Rappresenta tutta la sua vita, gli oggetti più cari, i libri da A alla Z, o quasi tutti i libri e tutti quegli oggetti che gli significavano tantissimo, dal cappotto al cappello, alla macchina di scrivere, praticamente sono oggetti che non li ha lasciati a nessuno, anzi prima di morire aveva premuto tanto che tutti questi oggetti facessero parte di una libreria sua Prosecco. Valentina Oblak, TGR Friuli Venezia Giulia. Le 12:48 minuti, gli spettacoli, è stata presentata la nuova stagione del Teatro Comunale di Cormons, firmata da artisti associati, il direttore artistico è Walter Mramor. Un cartellone di 12 appuntamenti che spazieranno dalle commedie ai classici, dal teatro musicale alla danza, con ospiti di rilievo quali Paola Quattrini, Giuseppe Pambieri, Milena Vukotic, Lucia Vasini, Lorenzo Lavia, Maddalena Crippa, Marina Massironi, Veronica Pivetti, Tango Rouge Company. Apertura il 14 novembre con Cetra una volta, un concentrato di simpatia e bel canto che riporterà gli spettatori all'epoca splendente dei varietà televisivi. Tra gli altri titoli Raffaella, omaggio alla Carrà, La signora omicidi, Così è se vi pare di Pirandello diretto da Geppi Gleieses, Le gratitudini di Delphine de Vigan, Un sogno a Istanbul, Moby Dick alla prova e in chiusura Elvis il musical. La campagna abbonamenti si aprirà il 23 settembre. Musica, la Piazza della Transalpina ospiterà questa sera alle 20 la prima assoluta del progetto transfrontaliero Go Borderless, Opera Lab, due nuove opere da camera che affrontano in musica il tema del confine dell'identità del territorio di Gorizia e Nova Gorizia. Il dittico operistico è stato realizzato da due giovani artisti under 35 del panorama transfrontaliero, Sara Caneva per l'Italia e Juraj Marko Zerovnik per la Slovenia. Ed accompagnare entrambe le opere è la Go Borderless Orchestra, una compagine che unisce musicisti italiani e sloveni per l'occasione diretta dalla stessa Sara Caneva. Tornano in tour nei teatri Elio e le Storie Tese, saranno anche in regione a Gorizia, la tappa del loro giro al Teatro Verdi il 5 di dicembre. Lo sport, il basket, ieri seconda giornata del girone tutto regionale di Supercoppa con la vittoria per 86-76 di Trieste sul campo di Cividale. Tra i protagonisti il biancorosso Francesco Candussi, friulano rinascita, che guarda già l'altro derby, quello di domani alle 20:30 con l'Apudine, che decreterà la formazione che passerà al turno. Lo abbiamo sentito a fine gara. Questa partita è un segnale che noi vogliamo dare un po' a tutto il campionato e anche a noi stessi. Noi entriamo in campo ogni partita per vincere e quindi questo per noi deve essere il mantra un po' di tutto l'anno. Lavoreremo ogni giorno duro in palestra per farlo e oggi era importante, la prima partita ufficiale e vera, dare un segnale. È un derby friulano, non è sentito come quello di Udine, ma è comunque un derby, quindi conta. Venerdì conta vincere? Venerdì conta vincere, conta convincere e soprattutto conta divertirsi, perché è importante anche quello. È una partita molto importante, vale doppio perché è sia una sfida dentro fuori che un derby e quindi sarà importante arrivare pronti. Il ministro dello sport Andrea Bodi ha dovuto rinunciare per un'indisposizione, dunque è stato rinviato l'incontro di questo pomeriggio a Udine sul progetto per il nuovo Carnera. Si è tenuta ugualmente invece la conferenza stampa sul sistema vela nell'Alto Adriatico, nella sede della società velica di Barcole Grignano, a poche settimane dalla 55esima edizione della Coppa d'Autunno. Sentiamo. A 24 giorni dal colpo di cannone che come da tradizione darà il via alla regata, il conto alla rovescia verso la barcolana numero 55 si fa sempre più serrato. Un'occasione per fare il punto sull'organizzazione e riflettere più in generale sul sistema vela della nostra regione è stato l'incontro a Trieste tra i presidenti dei circoli velici cittadini e quello della Federazione Italiana Vela Francesco e Torre. Mitia Gialuz, presidente società velica Barcola Grignano. La Barcolana paradossalmente è la regata più grande al mondo, ma è la punta di un iceberg, perché non esisterebbe se non ci fosse nel Friuli Venezia Giulia un movimento velistico straordinario che è fatto di tanta passione, tanto amore per il mare, tanto volontariato, e i circoli testimoniano questo dinamismo. Un giro di tavolo per esporre l'attività di ciascuno dei numerosi sodalizi che a Trieste riuniscono gli appassionati degli sport velici e che richiamano sempre più anche donne e giovani, con risultati lusinghieri come quello del giovane Mattia Di Martino, laureatosi da poco campione italiano della categoria Optimist dopo essere diventato campione europeo con la nazionale. Francesco Ettorre, presidente Federazione Italiana Vela. Il ruolo centrale delle società è strategico, è fondamentale. Oggi poter fare un corso di vela vuol dire non affrontare una spesa improponibile. Se oggi noi abbiamo più di 150.000 tesserati nella vela italiana, in grande crescita negli ultimi anni, tanta parte sono il mondo giovanile. E questo si traduce in grandi corsi di vela, tantissimi ragazzi si approcciano alla vela. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Lunedì 18 settembre, dopo i lavori di manutenzione annuale, riaprirà al pubblico la piscina Bruno Bianchi di Trieste con i consueti orari e il costo degli ingressi inalterato rispetto alla scorsa stagione, confermati gli orari per il nuoto libero che sono lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 22, mercoledì dalle 9 alle 14:30 e dalle 17 alle 20. Dalle 14:30 alle 16:30 la vasca da 50 metri sarà però riservata agli allenamenti delle società sportive. E anche venerdì dalle 9 alle 20 sarà nuoto libero. Per accedere all'impianto ed evitare il sovraffollamento delle corsie bisogna prenotare sulla piattaforma digitale sul sito piscinabianchi.it. Riprende anche l'attività agonistica delle società, mentre l'attività didattica delle varie scuole nuoto inizierà lunedì 2 ottobre. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Andrea Saule e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Edoardo Veglia. Sono le 12:53 minuti 30 secondi, prossima edizione alle 15. Grazie per l'attenzione e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.